570 kHz, pari alla lunghezza di onde così di 49 metri. Programma in lingua italiana a destinazione dell'Europa centrale. Bell'Egitto. A cura di Sadia, Ola e Heba. La pesca fu oggetto di numerose scene sulle pareti delle tombe nell'antico Egitto. In effetti il pesce era il cibo più comune perché non poteva permettersi quotidianamente la carne, anche se compare sulle tavole di ricchi, ed era molto facile procurarselo essendo il Nilo molto pescoso. Le tecniche di pesca erano diverse, ma la più usata era quella con la rete a strascico, che consisteva in una barca che attraversava il corso d'acqua trainando una rete e ritornava al punto di partenza richiudendola e imprigionando i vari pesci. La pesca con la lenza, con o senza canna, era ritenuta per lo più un divertimento per i facoltosi dignitari che la praticavano nei laghetti artificiali dei giardini delle loro ville. Sulla riva i pesci venivano aperti, puliti dall'interiore, appesi a seccare e infine posti sotto sale dentro grandi giare per la conservazione. Il pesce fresco era invece cucinato, di solito arrosto o lessato. Dalle uova dei muggini veniva ricavata anche una specie di bottarga. Le uova estratte durante la pulitura dei pesci venivano salate e quindi appallottolate e pressate. Oltre ai muggini, il Nilo era ricco di anguille, carpe, tilapie e pesci gatto. Sulle tavole d'offerta funeraria però i pesci non compaiono mai, il vero motivo di questa esclusione è sconosciuto. Dall'Egitto di Sadia Bakir. Radio Cairo vi presenta Corrispondenza degli ascoltatori. Un programma curato da Sadia Bakir. cari ascoltatori, buonasera. È con grande piacere che vi ritrovo questa settimana dopo un periodo d'assenza. L'assenza questa volta è dovuta agli avvenimenti in corso in questo periodo cruciale nella storia della nostra vittoriosa nazione. Sono sicura che quasi tutto il mondo sta bene ora alla piazza Tahrir, una parola che vuol dire liberazione, la più grande piazza situata al centro della capitale egiziana, il Cairo. È appunto in questo luogo che è nata la rivoluzione pacifica dei giovani egiziani di tutti i ceti sociali, che chiedono più libertà, giustizia sociale e soprattutto lotta contro la corruzione che negli ultimi anni si è rivelata la sua brutta faccia in vari campi della vita. Lontano dalla politica, questa rivoluzione pacifica, la cui prima fiamma scoppiata il 25 gennaio scorso con una manifestazione anch'essa pacifica, ha ben mostrato davanti agli occhi di tutta la nazione una potenza che era poco apprezzata. Quella dei giovani di solito accusati di indifferenza, pigrizia e egoismo. La verità si è rivelata ben diversa e i giovani si sono mostrati più che mai positivi e si sono determinati a cambiare il loro futuro al meglio e di lottare contro la corruzione. Infatti la crisi ha risuscitato uno spirito di positività che era mancato. Negli ultimi giorni si è rivelato un fenomeno assai positivo, quello dei gruppi di giovani che, volendo difendere le loro famiglie e le loro case, hanno formato dei comitati popolari che di sera giocavano efficacemente il ruolo degli agenti di polizia. Ricalcolando i conti, possiamo dire che malgrado le perdite di vite e di danni, la nostra nazione ha riconquistato il suo futuro e la sua dignità. Passiamo ora, cari amici, alle graditissime lettere giunteci dai nostri carissimi amici. Cominciamo con la email speditaci dal carissimo ed assiduo amico Fulvio Porticelli di Roma, in cui ha scritto: «Gentilissimi amici della redazione italiana, ancora una volta si rinnova il piacere di essere in contatto con voi. Vi giungano sentitissimi i miei saluti più cordiali, unitamente ai primi rapporti d'ascolto del neonato anno 2011. Si ricomincia un nuovo anno nella speranza che serbi per tutti delle positività. Per quanto riguarda l'ascolto dei vostri programmi, mi pare che abbiamo cominciato bene, infatti. Negli ultimi tempi il segnale è migliorato e se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la cosa mi fa bene sperare. Un grazie in particolare per le vostre email sempre gradite. L'ultima l'ho ricevuta giorni fa. Purtroppo in questi giorni abbiamo assistito attraverso la televisione ai gravi fatti che stanno avvenendo in Egitto. Cosa dire? Purtroppo c'è un po' troppo fermento. Negli ultimi giorni in alcuni paesi africani, prima la Tunisia, poi l'Algeria e adesso l'Egitto. Spero che tutto possa cessare nel più breve tempo possibile perché sta morendo tanta gente. E questo è molto grave. Da quando si è accesa la situazione non sento più il vostro segnale ed immagino che ci sia un fermo nella programmazione. Spero di avere presto buone notizie e che ogni violenza possa cessare immediatamente. Un abbraccio per tutti voi. Queste sono le parole del carissimo amico Fulvio Porticelli, per le quali lo ringraziamo di cuore per l'interesse e per i sublimi sentimenti. Infatti non abbiamo cessato a irradiare le nostre trasmissioni, ma il coprifuoco che ha impedito per alcuni giorni i nostri annunciatori a giungere agli studi della radio troppo vicina alla piazza Tahrir, fulcro degli avvenimenti. Speriamo che questi giorni la nostra voce possa giungervi tutti chiara. Nella sua lettera Fulvio ci ha mandato i soliti rapporti d'ascolto mensili, questa volta sono due relativi ai giorni 3 e 12 di gennaio. Il primo giorno l'ascolto è stato buono, mentre al secondo si è rivelato ottimo con un simpo di 5555555. Grazie mille ancora altra volta al carissimo Fulvio Porticelli. Passiamo ora alla lettera giuntaci dal carissimo amico di una volta Francesco Marsilli, che dopo un lungo periodo di assenza ha preferito riprendere l'amicizia. Nella sua email, assai gradita, ha scritto: carissima redazione italiana di Radio Cairo, è con grandi piaceri che riprendo a scrivervi dopo diverso tempo di silenzio. In questi giorni difficili per il vostro paese mi sento più vicino a tutti voi. È sempre un'emozione particolare sentire dai diretti interessati com'è effettivamente la situazione. Spero che presto possiate trovare un po' di tranquillità. Intanto, non appena sono iniziate le prime manifestazioni, ho avuto il desiderio quasi irrefrenabile di riascoltarvi. Dopo tanto tempo, cosa ho trovato? La mia cara e ben organizzata Radio Cairo, con tutte le sue rubriche, una più bella dell'altra, con sempre però problemi nella modulazione ad onde corte, che a mio avviso risultano ormai inascoltabili. Per fortuna che avete attivato una frequenza anche via satellite da dove vi ascolto in maniera ottimale. Il massimo sarebbe poter ascoltarvi anche via internet, magari con la nascita di una pagina web dedicata alla radio, un po' come ce l'hanno tutte le altre radio internazionali. Avverrà mai questo? Lo spero. Queste sono le parole di Francesco Marsilli. Grazie infinite al nostro carissimo amico per le sue parole assai incoraggianti, ed anche noi speriamo di creare una pagina web dedicata alla nostra radio che senz'altro faciliterà l'ascolto. Nella sua email Francesco ha proseguito dicendo: so che non lavora più con voi, ma vorrei approfittare di questa lettera per salutare con tutto il cuore la vostra, nostra carissima Concetta Corselli, che per tanti anni è stata una voce familiare a Radio Cairo. Spero di poterla risentire presto e magari di poter avere un suo indirizzo email per salutarla. Infatti le parole di Francesco mi hanno commosso tanto. La carissima Concetta Corselli non era per noi solamente collega di lavoro, invece ha insegnato all'università alla maggior parte dei lavoratori attuali alla redazione italiana, fra cui anch'io. Ricordo con stima e amore la mia professoressa all'università che mi ha insegnato per 2 anni fonetica e letture. Ma tutti noi la ricordiamo con stima per i suoi sforzi nella nostra radio e speriamo che stia in buona salute. Purtroppo, cari amici, il tempo dedicato a questa rubrica è quasi terminato. Vi ringraziamo di cuore per il vostro gentile ascolto e vi promettiamo di proseguire la lettura della lettera di Francesco Marsilli con altre ancora la settimana prossima. Fino a risentirci, vi auguriamo tutto il bene. Da Radio Cairo avete ascoltato la corrispondenza degli ascoltatori, un programma curato e presentato da Sade e Bakir. Sono le 20:15, qui il Cairo, Radio Diffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo ora all'ascolto del notiziario. Cominciamo con il riassunto delle principali notizie. Riunione del primo ministro egiziano con i capi dell'Unione delle Industrie. L'Arabia Saudita afferma il suo sostegno all'Egitto nella sua crisi attuale. Incontro oggi a Washington del ministro della difesa israeliano ed il suo omologo americano. Pakistan, talebani rivendicano strage centro reclutamento. Ed ora le notizie in dettaglio. Il primo ministro Ahmad Shafiq ha passato in rassegna nel corso della sua riunione con i capi dell'Unione delle Industrie, dell'Unione delle Camere Commerciali, nonché con i presidenti dei consigli d'esportazione, la situazione dopo i recenti incidenti che hanno perturbato il lavoro in questi settori. La riunione ha inoltre affrontato i problemi di cui soffrono questi settori ed i mezzi di trattarli. Il capo dell'Unione delle Industrie, Galel Zobra, ha dichiarato di aver informato il primo ministro degli sforzi che possono essere esercitati per mantenere gli investimenti in Egitto, per contenere tutti gli impatti negativi incidenti interni. Il presidente Barack Obama ha telefonato al re saudita Abdullah per discutere della crisi in Egitto. Nella telefonata il re Abdullah ha appellato l'amministrazione americana a sostenere l'Egitto nella crisi attuale. Il sovrano saudita ha affermato di essere disposto a sostenere l'Egitto nel caso della sospensione degli Stati Uniti del suo programma d'aiuto. Il ministro della difesa israeliano Ehud Barak ha discusso alla Casa Bianca della crisi egiziana con degli alti responsabili americani, tra cui il suo omologo Robert Gates ed il segretario di Stato americano, signora Hillary Clinton, ha indicato la presidenza americana. Il consigliere del presidente Barack Obama per la sicurezza nazionale, Tom Donilon, era inoltre presente, ha precisato la Casa Bianca in un comunicato. I membri dell'amministrazione Obama hanno sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, un forte alleato di Washington nella regione, ha detto la Casa Bianca. Le discussioni si sono inoltre incentrate sul dossier nucleare iraniano e sulla necessità di proseguire gli sforzi di pace in Medio Oriente. Mahdi Karroubi, uno dei principali leader dell'opposizione, è agli arresti domiciliari. Lo riferisce il figlio. Nessuno tranne la moglie può entrare nell'abitazione fino al 14 febbraio. Karroubi e Mir Hossein Mousavi, altro leader del movimento antigovernativo, avevano chiesto l'autorizzazione per una manifestazione a sostegno delle rivolte in Tunisia ed Egitto. Ieri i guardiani della rivoluzione hanno messo in guardia l'opposizione dal tornare in piazza domani, anniversario della rivoluzione. È stata rivendicata dai talebani la strage compiuta da un giovanissimo kamikaze in un centro di reclutamento dell'esercito a Mardan, nel nord-ovest del Pakistan, in cui sono morti 27 cadetti ed altri 35 sono rimasti feriti. Il kamikaze si è introdotto nella caserma grazie alla divisa da allievo dell'Accademia Militare che indossava e mentre le reclute stavano effettuando una marcia di addestramento si è fatto saltare in aria. Prove di rinnovato dialogo tra India e Pakistan per la prima volta dopo quasi 2 anni e mezzo, da quando cioè i negoziati tra i grandi rivali del subcontinente asiatico furono troncati in seguito ai 10 attentati simultanei del novembre 2008 a Mumbai, già Bombay, costati almeno 166 morti. Da Radio Cairo siete all'ascolto del notiziario. Nordcoreani e sudcoreani si accusano a vicenda oggi per il fallimento dei negoziati militari di ieri. La Corea del Nord ha detto che intende negoziare fino a quando la Corea del Sud non sarà disponibile a migliorare le relazioni tra i due stati. Seoul ha risposto che Pyongyang deve ammettere il proprio ruolo nei due attacchi militari che nel 2010 hanno provocato una cinquantina di morti. Secondo alcuni analisti, la rottura di ieri era inevitabile, dato che entrambe le parti erano giunte al tavolo negoziale con diverse questioni aperte e inoltre si tratta di una modalità tipica del dialogo a sprazzi tra le due Coree. Il Giappone sta monitorando con attenzione le attività militari della Russia vicino ad un gruppo di isole contese tra i due stati. Lo ha detto oggi il portavoce del governo giapponese dopo che Mosca ha annunciato il dispiegamento di nuove unità nella zona. Le relazioni tra Tokyo e Mosca sono state offuscate da una disputa di lungo corso sulle quattro isole che i russi chiamano Curili del Sud e i giapponesi territori settentrionali. La stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese greche ha subito pesanti conseguenze a causa della crisi economica. Entro il primo semestre del 2012 più di 225.000 piccole e medie imprese rischiano di chiudere la propria attività. E quanto risulta da uno studio condotto dall'Istituto per Piccole e Medie Imprese, IME, della Confederazione Ellenica degli Imprenditori e Commercianti, nel quale si sottolinea che le perdite dei posti di lavoro potrebbero raggiungere le 300.000 unità. Il kamikaze che si fece saltare all'aeroporto di Mosca causando la morte di 36 persone si sarebbe recato qualche giorno prima del folle gesto nel proprio villaggio natale in Ingushetia, Nord Caucaso, ed è qui che avrebbe realizzato l'ordigno esploso nello scalo russo, a renderlo noto il quotidiano Kommersant. All'indomani del sequestro in pieno Oceano Indiano della petroliera italiana Savina Kailen, i pirati somali si sono impadroniti di un'altra nave mercantile, una preda ancora più ambita. Si tratta infatti della superpetroliera greca Irenzi, abbordata dai predoni addirittura al largo delle coste del Sultanato dell'Oman, quindi ad una distanza persino maggiore dal Corno d'Africa rispetto all'isola yemenita di Socotra, dove era stata attaccata la Savina Kailin. Il Giappone sta monitorando con attenzione le attività militari della Russia vicino ad un gruppo di isole contese tra i due stati, lo ha detto oggi il portavoce del governo giapponese dopo che Mosca ha annunciato il dispiegamento di nuove unità nella zona. Le relazioni tra Tokyo e Mosca sono state offuscate da una disputa di lungo corso sulle quattro isole che i russi chiamano Curili del Sud e i giapponesi territori settentrionali. Con questa notizia termina il notiziario di oggi da Radio Cairo. Arrivederci. Da Radio Cairo vi presentiamo Spotlight. Programma curato da Amani Shahin. Cari ascoltatori, buonasera. Nel 16° giorno di manifestazioni contro il presidente Hosni Mubarak si allarga il fronte della protesta al Cairo e in Egitto. Prosegue la mobilitazione di migliaia di persone in piazza Tahrir. Moltissimi gli egiziani che si sono radunati anche davanti al Parlamento. Non sono bastate le parole del vicepresidente Omar Suleiman per convincere i manifestanti a desistere. L'ex capo dei servizi segreti, come poi ha fatto anche il capo della diplomazia Ahmad Abolghieh, ha avvertito che le proteste sono molto pericolose e che l'alternativa al dialogo è il colpo di Stato. Il paese non può sopportare per molto tempo le continue proteste, ha detto. La crisi deve finire il più presto possibile. E non ci sarà un allontanamento immediato di Mubarak. L'alternativa al dialogo è il colpo di Stato che potrebbe a conseguenze affrettate e incalcolabili frutto di irrazionalità. Non vogliamo raggiungere questo punto, vogliamo proteggere l'Egitto, ha detto Abolghieh. Barack Obama ha sottolineato la necessità di una rapida transizione politica. Intanto il ministro degli esteri egiziano Abolghieh, in un'intervista rilasciata alla rete televisiva americana PBS, ha accusato gli USA di volere imporre la loro volontà in Egitto. I fratelli musulmani che ieri hanno dato una settimana a Mubarak per andarsene hanno assicurato di non voler ricercare il potere. Non vogliamo partecipare al momento, non possiamo certo essere la forza dominante. Non è una persona, un partito o un gruppo a guidare le manifestazioni. Nessuno può far credere di guidare la folla, ha spiegato in conferenza stampa un alto dirigente del movimento Mohammad Morsi. La fratellanza pertanto non intende presentare alcun candidato alle prossime elezioni presidenziali, ha dichiarato Morsi. Il governo egiziano da parte sua ha accettato di emendare 6 articoli della Costituzione immediatamente. Tra questi, quelli su chi possa candidarsi e per quanto tempo si possa restare in carica. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Spotlight, un'analisi politica curata e presentata da Ameni Shahin. Radio Cairo vi presenta Prima pagina. Programma curato da Ebtisam Abdelmegid. Cari ascoltatori, buonasera e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata del vostro programma Prima Pagina. Carissimi amici, sfoglieremo oggi insieme le diverse pagine della stampa egiziana leggendo cosa ha pubblicato sulla scena egiziana. Cominciamo, cari ascoltatori, con la rivista settimanale Ahelsa'a e leggiamo. La rivoluzione in Egitto ha finalmente un volto. Il volto della rivoluzione in Egitto è quello di Ewe El Ghonem. Finalmente, dalle rivolte che stanno incendiando il Maghreb, esce un volto, una faccia. Finalmente è una persona uscita dalla piazza e non un consumato leader dell'opposizione in esilio. Niente da dire sulla dignità di Mohammed El Baradei per quanto riguarda l'Egitto o di Monsef Marzouki per la Tunisia, ma il loro rientro in patria sembra la scelta di riserva dell'Occidente, una sorta di piano B per mantenere intatta la propria sfera di influenza. Dal popolo non era mai emersa una voce vera e propria fino a 2 giorni. Ewe El Ghonem, a 30 anni, è un responsabile per il Medio Oriente del marketing di Google e ha un blog. Era stato arrestato il 28 gennaio. La polizia egiziana lo ha interrogato per 12 giorni dopo averlo prelevato da Piazza Tahrir. Dopo il rilascio ed In un'intervista clamorosa, la televisione egiziana Dream TV lo ha intervistato e le sue parole hanno avuto un impatto enorme sui manifestanti di Piazza Tahrir e su tutto il movimento egiziano per la svolta democratica. In Egitto non devono esserci più ostacoli per ottenere libertà e democrazia. Nonostante le parole emozionanti e l'ondata di sostegno alzata in rete, Ghanem ha chiesto più volte di non essere etichettato come un eroe e di non essere usato come un simbolo. Passiamo ora, carissimi amici, alla settimanale Ottobre e leggiamo. Oltre a promettere un'inchiesta indipendente sulle violenze dei giorni scorsi, l'esecutivo ha approvato un piano per aumentare gli stipendi del settore statale del 15% a partire da aprile e si è impegnato a spendere 6,5 miliardi di sterline egiziane, 940 milioni di dollari, per aumentare le pensioni. L'esecutivo ha dato inoltre istruzione per la creazione di una commissione d'inchiesta trasparente, indipendente ed imparziale sugli scontri a Piazza Tahrir tra sostenitori del regime e manifestanti che hanno causato almeno 11 morti e quasi 1000 feriti secondo le stime ufficiali. Concluderemo con il quotidiano Al-Gumhuriya e leggiamo: governo USA ha ammesso che sarebbe un obiettivo complicato per l'Egitto organizzare e celebrare subito elezioni libere e credibili. Se il presidente Hosni Mubarak si dimettesse ora, l'Egitto dovrebbe andare al voto nell'arco di 60 giorni, secondo quanto prevede la Costituzione egiziana. E questo porrebbe l'interrogativo se l'Egitto sia preparato ad organizzare elezioni regolari, se si tiene conto che nel passato furono ben lontane dall'essere libere ed imparziali, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Philip Crowley. Carissimi amici, termina così la nostra rassegna stampa di oggi. Arrivederci. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Prima pagina. Rassegna stampa curata da Ibtissam Abdelmegid e presentata oggi da Ameni Shahin. شمسها عايشة زي ضحكة ولا تقولش وما تقولوش يا ريا ولا يرجع لك تاني Da Radio Cairo vi presentiamo L'Egitto si racconta. cura di Yasser Ahmed. Amici di Radio Cairo, buonasera a tutti e benvenuti all'ascolto di una nuova edizione del vostro programma. Questa sera vi parleremo di uno degli antichi monasteri copti che si trova nella regione dell'Alto Egitto, ad Assiut, il monastero di Sant'Apollo a Bawit. Seguiteci dopo questo stacco musicale. I resti dell'antico monastero di Bawit si trovano sulla riva occidentale del Nilo, nella zona desertica prospiciente la piana fertile, a una quindicina di chilometri dalla cittadina di Dairut. La denominazione della località deriva dal termine copto panot, che significa assemblea e anche monastero. Il primo insediamento monastico fu fondato dal monaco Apollo nella seconda metà del IV secolo, probabilmente tra il 385 e il 390. Di Apollo ci parla l'anonimo redattore della Historia Monachorum, che lo conobbe personalmente e disse: «Abbiamo visto anche un altro uomo santo di nome Apollo in Tebaida, nel territorio di Ermopoli. Quest'uomo aveva dei romitori nel deserto sotto la montagna ed era padre di 500 monaci. Era famoso nella Tebaida e faceva grandi opere. Il Signore operava molti miracoli per mezzo suo e per tramite suo si compivano molti prodigi. Fin da ragazzo egli aveva praticato una rigorosa ascesi e verso la fine della vita ottenne questa grazia a 80 anni, finché un vasto monastero di 500 uomini perfetti, che erano quasi tutti in grado di compiere prodigi. Egli si era ritirato dal mondo a 15 anni e aveva trascorso 40 anni nel deserto, esercitando diligentemente ogni virtù. Un giorno udì la voce di Dio che gli disse: «Apollo, per mezzo tuo distruggerò la sapienza dei sapienti egiziani e rigetterò l'intelligenza dei popoli pagani intelligenti. Distruggerò per me, insieme con loro, anche i sapienti di Babilonia e farei scomparire tutti i culti diabolici. E adesso va nelle terre abitate. Ivi genererà infatti un popolo eletto, zelante in opere buone». Egli obbedì subito e si recò nelle terre abitate e si fermò per un certo periodo nel deserto vicino alla città. Occupò una piccola grotta e rimase là sotto la montagna. La sua attività consisteva nel rendere a Dio preghiere tutto il giorno, genuflettendosi 100 volte durante la notte e altrettanto durante il giorno. Viveva compiendo prodigi e guarigioni straordinari che non si potrebbero raccontare, tanto oltrepassavano ogni meraviglia. Da ogni parte vennero a lui attirati dalla sua fama. Molti monaci e moltissime persone rinunciarono completamente al mondo grazie al suo insegnamento e all'esempio della sua umiltà. Il numero dei monaci che stavano con lui nel deserto arrivò fino a 500, facevano vita comunitaria e mangiavano in una sola tavola. Dall'antico monastero di Sant'Apollo a Bawit ad Assiut nell'Alto Egitto non era stato praticamente nulla, essendo probabilmente stato saccheggiato e distrutto dai beduini del deserto. Una nuova fase edilizia ebbe luogo durante il VI secolo, quando una comunità femminile, il cui nome era associata a quello di Santa Rachele, ma l'apogeo del monastero venne raggiunto nel VII secolo, epoca in cui il complesso monastico poteva ospitare fino a 5.000 monaci. A partire

الليالي فرح حبيبتنا الأمم من كل وادي للحبايب احنا مدينا الأيادي فرح حبيبتنا الأمم من كل وادي للحبايب احنا مدينا الأيادي رحبت بنا الأمم من كل وادي تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما تحيا في النور كل أمة والحقيقة نشوفها لما Mit den Tonzeichen war soeben 21 Uhr ägyptischer Zeit. Hier ist Radio Kairo mit seinem Programm in deutscher Sprache.